le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La Corte di Giustizia condanna l'Italia per i precari della scuola. 250.000 dovranno essere assunti. Il piano del governo prevede la stabilizzazione per 150.000. Il 90% degli euro falsi in circolazione nel continente arrivavano da Napoli. Sgominata un'organizzazione, oltre 50 arresti, spacciate in Germania banconote da 300 euro. Juncker presenta il piano per il rilancio dell'economia europea. Mobiliterà, dice, 300 miliardi. Gli investimenti degli stati saranno scorporati dal calcolo del deficit. Dopo il voto sulla riforma del lavoro si approfondisce il solco tra minoranza e maggioranza PD. Intanto in Forza Italia Fitto torna all'attacco. Primarie per tutti, dice Radio 24. È un fatto grave, a rischio la salute pubblica, parole del ministro Lorenzin dopo la sentenza di un giudice di Milano che collega l'autismo ad un vaccino. Caos libico, l'ONU chiede che si fermino i raid su Tripoli, mentre l'Italia apre ad una missione di peacekeeping nel paese. Dopo la delusione Champions per la Roma, agguantata dal CSKA allo scadere, stasera la Juventus in campo contro il Malmo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre i nostri contatti 349-238-6666 per gli sms, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, la nostra email effettogiorno@radio24.it. In apertura parliamo di scuola e di Europa perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia arrivata questa mattina. Sono almeno 300.000 e se ora si rivolgono ad un tribunale del lavoro possono ottenere risarcimenti e immissioni in ruolo, perché ora la Corte di Giustizia europea ha stabilito che non è giustificato il rinnovo illimitato dei contratti a tempo all'interno della scuola. Dopo 5 anni di battaglia giudiziaria, quando già il governo ha annunciato una parziale sanatoria col piano La Buona Scuola, l'Europa condanna l'Italia per una normativa contraria al diritto dell'Unione. Per coprire posti vuoti l'accordo quadro non prevede, scrivono i giudici di Lussemburgo, il rinnovo dei contratti con scadenza senza indicare tempi certi per i concorsi ed eventuali risarcimenti. Poche righe che aprono però ai tanti insegnanti con almeno 3 anni di anzianità, come ha il personale ATA, la possibilità di battere cassa anche per gli scatti di anzianità. E l'ANIEF, il sindacato che ha avviato questo iter giudiziario a partire da un caso napoletano, stima in almeno 2 miliardi i risarcimenti. Il presidente Marcello Pacifico. Più di 250.000 persone potrebbero comunque ricorrere in tribunale, anche coloro che verranno assunti, perché potrebbero citare lo Stato italiano per inadempienza. Più di 100.000 assunti negli ultimi 3 anni potrebbero chiedere la parità di trattamento. 148.000 precari dovrebbero essere assunti secondo il piano scuola del governo Renzi, che a gennaio dovrebbe diventare un decreto, ma i fronti giudiziari non sembrano dunque affatto chiusi. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E chiederemo chiarimenti e spiegazioni tra un attimo al ministro dell'istruzione Stefania Giannini, la raggiungeremo tra poco. Restiamo intanto sulle istituzioni europee, ma dalla Corte di Giustizia ci spostiamo al Parlamento, a Strasburgo, dove Jean-Claude Juncker ha presentato il piano di investimenti, ormai famoso per essere il piano da 300 miliardi. Ci spiega tutto in diretta Laura Bettini. Laura. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Ha detto è il terzo pilastro per il rilancio europeo, questo, dopo gli sforzi per promuovere credibilità fiscale e riforme strutturali. And to complete this virtuous omnitrium perfectum. Gli investimenti oggi in Europa, ha spiegato Juncker, sono 370 miliardi sotto il livello pre-crisi. Il piano che stiamo presentando deve essere inteso come un innaffiatoio. Innaffiatoio da riempire come? Alla fonte del Fondo Europeo per gli investimenti strategici, che, ha spiegato poi il vice di Juncker, Katainen, avrà una dotazione di capitale di almeno 21 miliardi di euro in 3 anni. First, it comes from the European Investment Bank. 5 miliardi arriveranno, dice, dalla BEI, 16 miliardi provenienti dal bilancio europeo. La BEI gestirà il fondo, si occuperà della prima fase, in cui si conta di reperire sul mercato 60 miliardi da avviare a progetti di investimento su reti energetiche, telecomunicazioni, trasporti, ambiente, educazione, progetti che a loro volta dovrebbero riuscire ad attrarre cofinanziamenti privati e pubblici. If member states chip in capital to the fund, we will not take these contributions. Senza infrangere le regole del patto di stabilità, ha specificato Juncker, i contributi degli stati saranno scorporati dal computo di deficit e debito. Nelle speranze della Commissione, il fondo avrà un effetto moltiplicatore da 1 a 15, quindi per ogni euro investito si otterranno 15 euro finanziati, ed è così che dai 21 miliardi stanziati effettivamente si passerebbe agli oltre 300 che, appunto, ricordavi, la Commissione ha sbandierato in queste ultime ore nel presentare il piano. Cosa c'è da aggiungere? Che è un piano più che altro politico, più che economico, che secondo alcuni ha subito un'accelerazione perché avrebbe dovuto uscire in dicembre in realtà, per convincere gli eurosocialisti a votare con gli europopolari domani, quando si voterà la mozione del Movimento 5 Stelle, ma anche degli altri partiti euroscettici, contro Juncker per la vicenda LuxLeaks, di cui sicuramente a effetto giorno hai parlato più volte, Simone. Possiamo dire anche che in conclusione Gianni Pittella, presidente degli eurodeputati socialisti e democratici, ha annunciato subito l'appoggio al piano. Grazie a Laura Bettini per questi aggiornamenti. È intervenuto questa mattina nell'aula dell'Europarlamento anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Ascoltiamolo. L'iniziativa del presidente Juncker è quanto mai opportuna. È inutile negare che la crescita in Europa è poco soddisfacente. Ci sono previsioni della crescita che sono costantemente rivolte verso il basso. C'è un rischio serio di movimento verso la stagnazione, mentre l'inflazione rimane troppo bassa per troppo a lungo. È necessario uno shock positivo per imboccare un diverso sentiero di crescita, allontanare il rischio di stagnazione. È necessario e possibile per tutta l'Europa. E ci colleghiamo adesso con un altro ministro, il titolare del Dicastero dell'Istruzione, Stefania Giannini. Buongiorno e bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Per parlare di questa sentenza della Corte di Giustizia Europea che impone, da quel che apprendiamo almeno dalle agenzie, l'assunzione di 250.000 precari, il vostro piano prevede l'assunzione di 150.000 precari della scuola. Sarete costretti ad adeguarvi alla sentenza, ministro? Prima di dare numeri bisogna leggere con molta attenzione questo, che è un primo passo, peraltro atteso, che è la sentenza appunto della Corte europea. Ci sarà poi una presentazione in Commissione delle misure che l'Italia ha attivato con una certa tempestività, ma non solo rispetto a questo tema che ci è noto e dalla cui consapevolezza siamo partiti. Io l'ho definito, forse qualcuno lo ricorderà, una piaga e una patologia tutta italiana che nel ripensare la sfida educativa del Paese non poteva essere trascurata. Quindi mi pare che i contenuti e i metodi che la buona scuola prevede siano perfettamente in linea, ma anticipatori rispetto a quello che la Corte europea sentenza ha indicato. Quello che ci sta dicendo. Francamente credo che il governo stia facendo, abbinando al piano assunzionale tutta un'altra serie di elementi che non sto qui a ripetere. Ministro, quindi in sostanza quello che ci sta dicendo è che la sentenza arriva in ritardo rispetto a quello che avete fatto voi? Beh, se la vuol dire in un modo diverso, io preferisco la formula che ho usato, cioè sì. Noi abbiamo anticipato una soluzione perché pensiamo, a prescindere dalle sentenze, le politiche, mi permetto di dire, né in Europa né nei singoli stati membri devono essere guidate dalle sentenze, ma devono essere guidati da una visione, dia il meglio al Paese nel settore di cui ci si occupa, e la nostra visione è che centinaia di migliaia di persone che sono instabili nel mondo della scuola e che quindi creano condizioni di stabilità e subiscono condizioni di stabilità non possono essere la condizione di partenza. Quindi questo dimostra consapevolezza, coraggio e anche capacità di dare una visione per la prima volta dopo 25 anni. C'è anche una partita che riguarda che questa sedimentazione di un precariato cosiddetto storico non è a caso, è il frutto di 30 anni di malgoverno. C'è anche una partita che riguarda i risarcimenti, si parla di addirittura 2 miliardi di euro, ministro. Questo è un tema che francamente non credo si debba ora aggiungere a quello di cui ci stiamo occupando. Noi ci stiamo occupando e l'abbiamo fatto a partire da marzo, quindi un mese dopo l'insediamento di questo governo, di rimettere in sesto anche sotto questo profilo il mondo della scuola italiana. La ringrazio, grazie al ministro Stefania Giannini, che naturalmente ci ha potuto dare la risposta che poteva darci, evidentemente anche a fronte di una sentenza che è appena arrivata e della quale vedremo i contorni nei prossimi giorni. Magari torneremo anche a parlare con lei, a chiederle ulteriori chiarimenti. Abbiamo parlato degli euro in arrivo per il piano di investimenti dell'Unione Europea, ma c'è una vicenda di oggi anche di euro falsi in arrivo da Napoli. Il 90% degli euro falsi che circolano nel continente arrivavano da un'organizzazione sgominata oggi, a quanto pare. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono 56 le misure cautelari eseguite tra la Campania e il Lazio dai carabinieri, che hanno colpito duramente quella che potremmo definire la banda di falsari più temuta a livello internazionale, denominata Napoli Group, e che, come ha detto il procuratore di Napoli Giovanni Colangelo, è ritenuta responsabile del 90% della falsificazione monetaria mondiale di euro. Banconote e monete spese in Italia, Francia, Spagna, Germania, Romania, Bulgaria, Albania, ma anche in Senegal, Marocco, Tunisia e Algeria. I componenti della banda erano in contatto con esponenti della criminalità organizzata di vari paesi europei, cui davano anche lezioni di contraffazione, spostandosi da un paese all'altro. Il Napoli Group, molto temuto dalla BCE, era costituito da 11 associazioni a delinquere, ciascuna delle quali è specializzata in un compito, dallo stoccaggio al trasporto e alla spesa al minuto delle banconote. Le accuse rivolte agli indagati a vario titolo, oltre all'associazione a delinquere, sono contraffazione e messa in circolazione di monete e banconote e valori di bollo, fabbricazione e detenzione di filigrane o di strumenti destinati a tali attività di falsificazione e contraffazione di pubblici sigilli. Grazie a Laura Viggiano per questi aggiornamenti. Siamo alle vicende della politica italiana, con le tensioni che attraversano praticamente tutte le forze politiche, fatta eccezione per la Lega, che gode di un buon momento dopo il risultato alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Nel centro-sinistra il PD fa i conti con chi non ha votato il Jobs Act, Forza Italia sembra vicina ad una resa dei conti, nel Movimento 5 Stelle ci sono nuovi mal di pancia dopo la scomunica di Grillo al deputato Walter Rizzetto. Iniziamo dal PD, Vincenzo Miglietta, eccoci. Sì, buongiorno. Partito Democratico alle prese con l'offensiva della minoranza interna che, pur con diverse anime, ha messo in difficoltà il presidente del Consiglio Renzi, con la scelta ieri comune alle opposizioni di abbandonare l'aula al momento del voto del Jobs Act. Alla fine sono stati 33 i deputati del PD su un gruppo di 307 a non dire sì alla delega, al netto di quelli la cui assenza era giustificata. Civati e Pastorino hanno votato no, 2 si sono astenuti, gli altri non hanno partecipato al voto. Tra questi ci sono i 29 deputati firmatari di un documento in cui spiegano le ragioni del loro gesto. Nonostante le modifiche apportate alla Camera, spiegano i frondisti, l'impianto della riforma non è soddisfacente. E tra loro ci sono nomi di primo livello: Cuperlo, Rosi, Bindi, Boccia, quindi da Torre con altri bersaniani. La corrente dell'ex segretario, che ha invece votato sì al provvedimento, bacchetta però con durezza l'iniziativa. Abbandonare l'aula per parte nostra avrebbe significato disconoscere i risultati che abbiamo ottenuto, far mancare il numero legale, impedire l'approvazione del provvedimento e costringere il governo a trarre immediatamente le dovute conseguenze. Ma oggi la Bindi, in un'intervista a Rilancia e su un'eventuale scissione, dice: se il PD torna a essere il partito dell'Ulivo che unisce e accompagna il paese, non ci sarà bisogno di alternative, ma se il PD è quello di questi ultimi mesi, è chiaro che ci sarà bisogno di una forza politica nuova. È tutto, Simone, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e di questo torneremo a parlare più avanti in effetto giorno con Pippo Civati, deputato del Partito Democratico, che fa parte della minoranza ed è uno di quelli che ha scelto, invece di uscire e non votare, ha scelto di votare contro il Jobs Act. Cercheremo di capire anche quali sono le ragioni. Veniamo al partito di Berlusconi, il quale ieri ha puntato decisamente su Salvini come possibile leader, ma parliamo anche del Movimento 5 Stelle. La benedizione di Matteo Salvini come candidato premier del centrodestra, arrivata ieri da Silvio Berlusconi, non è piaciuta alla fronda di Forza Italia. I dissidenti azzurri affilano le armi in vista della nuova riunione del comitato di presidenza in programma nel pomeriggio, e ospite di Mix 24 Raffaele Fitto torna a chiedere le primarie per tutti, Berlusconi compreso. Oggi avremo una discussione all'interno del partito su questo, e cercheremo di, io mi auguro, di costruire un percorso unitario, ma il percorso unitario lo si deve fare rispettando e contenendo le posizioni di tutti. Un secco no all'ipotesi di Salvini candidato premier arriva anche dal leader del nuovo centrodestra Alfano. Noi ci stiamo a fare una grande unità dell'area alternativa alla sinistra, però con Salvini, con cui non ho nulla di personale, non vado d'accordo, perché lui vuole uscire dall'Europa e io voglio cambiare l'Europa. Dopo le regionali, intanto le acque sono agitate anche nel Movimento 5 Stelle. L'analisi rassicurante di Beppe Grillo, che ha detto di non giudicare una debacle il risultato del voto, non ha convinto i dissidenti, che accusano proprio l'ex comico di essere il principale responsabile della sconfitta in Emilia e Calabria. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Brevemente ritorniamo sulla vicenda del canone Rai. I tempi sono stretti, ma l'esigenza di una riforma in direzione di una maggiore equità resta. Allora, all'indomani delle sue dichiarazioni sull'inserimento del canone in bolletta già da gennaio, rese ad Alessandro Milan in 24 Mattino, e le precisazioni di ieri di Palazzo Chigi, che ha fatto sapere come fosse tecnicamente difficile, il sottosegretario alle comunicazioni Giacomelli torna sul tema. Stiamo verificando con il Ministero dell'Economia se esistono tutte le condizioni per inserire le norme già da subito in stabilità, oppure quali siano le modalità, i percorsi e i tempi possibili. All'estero adesso, e torniamo a Ferguson per la seconda notte di scontri e proteste. Non ci sono scuse per le violenze a Ferguson. Il presidente Obama tenta di mantenere il polso fermo mentre nelle strade delle città americane si moltiplicano manifestazioni e proteste. Gli americani continuano a sfilare, a bloccare tunnel e ponti, a chiedere giustizia, a urlare mani in alto, non sparate. Obama condanna gli atti vandalici, le fiamme appiccate alle macchine, le vetrine infrante, ma lo stesso Obama avverte che il problema di Ferguson è un problema di tutta l'America, e se una parte della comunità non si sente benvenuta o trattata equamente, la cosa mette a rischio tutti. Stigmatizzare i violenti, non abbandonare i delusi, coloro che si sono sentiti ancora una volta esclusi, messi in secondo piano. A Ferguson anche questa è stata una notte di proteste, mentre l'agente Wilson ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti. Mi dispiace, dice Wilson, ma io ho fatto solo il mio lavoro. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I vaccini, c'è una sentenza di ieri del Tribunale di Milano, il Tribunale del Lavoro di Milano, no, meglio non di ieri, dei giorni scorsi, della quale si è avuta notizia ieri, che mette tra le concause di dell'autismo per un bambino proprio un vaccino esavalente. Una vicenda pericolosa, dice il ministro Lorenzin, un fatto grave che mette a rischio la salute pubblica proprio a causa del calo dei vaccini che una serie di leggende metropolitane stanno evidentemente diffondendo. Ne parleremo subito dopo la viabilità insieme al sottosegretario alla salute. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il medico di emergency, affetto da Ebola, è stabile ma presenta ancora febbre a 38,5 gradi, notizia che arriva dal bollettino medico dello Spallanzani. La Corte di Giustizia condanna l'Italia per i precari della scuola, 250.000 dovranno essere assunti, il piano del governo prevede la stabilizzazione per 150.000, analizzeremo la situazione, ci ha detto poco fa il ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Il 90% degli euro falsi in circolazione nel continente arriva da Napoli, è sgominata un'organizzazione, oltre 50 arresti, spacciate in Germania banconote da 300 euro. Juncker presenta il piano per il rilancio dell'economia europea, gli investimenti degli stati saranno tra l'altro scorporati dal calcolo del deficit. Vito De Filippo, sottosegretario alla salute, benvenuto, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Come annunciato prima della viabilità, vogliamo parlare con lei di una vicenda che è emersa ieri, in realtà non è la prima sentenza di questo tipo, in questo caso arriva da Milano, dal Tribunale del Lavoro, condanna il Ministero della Salute a risarcire la famiglia di un bambino, di una bambina autistica, perché indica tra le concause dell'autismo della bambina il vaccino esavalente. Tra le notizie che si sono diffuse ieri è che il Ministero non ha presentato ricorso. Ci può far chiarezza da questo punto di vista? No, la notizia non era fondata, abbiamo presentato ricorso, iscritto regolarmente al ruolo della Corte d'Appello, quindi come sempre in questi casi noi faremo con le nostre perizie e anche con la nostra attività giurisprudenziale faremo una difesa strenua, direi, di questa questione, perché non è, come diceva lei, la prima sentenza. Purtroppo l'effetto più negativo di questa vicenda, che ovviamente la magistratura ha il dovere inviolabile di poter in qualche modo gestire nella sua autonomia, ma l'effetto più negativo è proprio quello che si produce nella comunità, perché il nostro è un paese che ha avuto un avanzamento straordinario di salute pubblica proprio attraverso grandi e importanti campagne di vaccinazione, alle quali noi non dobbiamo rinunciare, perché è stato uno dei grandi cambiamenti della sanità del nostro paese. Allora, conosco la storia di questi eventi, ci sono dibattiti scientifici autorevoli dall'esordio di queste questioni di un medico inglese, ma insomma noi abbiamo cominciato. Ricordiamo brevemente per gli ascoltatori che la leggenda, perché di tale si tratta, del collegamento tra autismo e vaccini, ed è una vicenda evidentemente falsa, nasce da un medico inglese poi radiato dall'ordine dei medici, costretto a ritrattare le sue tesi, che lo fece sostanzialmente per altre motivazioni. Eppure queste leggende evidentemente continuano a circolare. Sottosegretario, però le chiedo anche da politico, ma può un giudice ignorare questi fatti nonostante ci sia una perizia che magari attesta come possibile con causa una cosa di questo genere? Guardi, io sono un difensore della separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura, quindi io spero che in scienza e coscienza ogni volta i magistrati ragionano esattamente con elementi di serietà, di equilibrio e di ponderatezza. In questo caso immagino che la sentenza si fondi su perizie di parte che sono state alla base della decisione. Noi opporremo le nostre valutazioni. Devo dire, l'Istituto Superiore di Sanità già da tempo ha offerto dossier puntuali e abbondanti su questa materia, che potrebbero diventare in qualche modo patrimonio pubblico. Questo non succede sempre, non è il primo tribunale che si esprime in questo modo. Noi ci difenderemo, ovviamente la legge prevede che ci dobbiamo difendere in tribunale, ma difendiamo sicuramente le grandi campagne di vaccinazione che, ripeto, sono state alla base di svolte importanti della sanità. Più in generale, sottosegretario, in seguito al ritornare in auge di queste teorie, alle notizie che poi circolano in rete in maniera incontrollata, voi avete riscontrato un calo delle vaccinazioni? Beh, c'è un po', qualche effetto c'è, sì, sicuramente c'è un effetto anche di questo tipo. Ci sono molte famiglie che rinunciano ad utilizzare questo importante strumento di prevenzione, sì. Un calo c'è sicuramente registrato, se sono dati che sono anche pubblici, anche sul sito del Ministero sono possibili consultare questi dati. Sottosegretario, un'ultima domanda, perché visto che ci scrive un'ascoltatrice via SMS, dice io ho avuto un grave danno a causa delle vaccinazioni. Ricordiamo una cosa però, che il punto non è il danno collaterale che può fare una vaccinazione, il punto è il collegamento tra l'autismo e il vaccino medesimo. Bravissimo, vedo che sta rispondendo meglio di qualsiasi altro tecnico. Mi fa molto piacere, perché quando si informa bene è sempre un fatto positivo. In Italia ricordo che c'è una legge importante approvata dal Parlamento, il patrimonio legislativo del nostro paese, che produce effetti positivi per i danneggiati da emoderivati o da vaccinazioni obbligatorie, con tanto di incentivi di eque riparazione, di indennità, insomma, esiste sicuramente. Quando c'è un effetto su altri fronti sanitari, come dire, dimostrato in termini di causa-effetto, la legislazione italiana prevede esattamente un ristoro. Grazie al sottosegretario alla salute Vito De Filippo e ad Andrea, che ci scrive via SMS a proposito di Wakefield, il medico inglese che citavamo. Cosa vuol dire costretto? No? Confessò sotto tortura o si ravvide da solo il medico inglese? No, è stato semplicemente radiato dall'ordine e costretto dalle evidenze scientifiche a ritrattare le sue tesi. Pippo Civati, deputato del Partito Democratico, buongiorno e benvenuto. buongiorno. Allora, lei ha deciso ieri sul Jobs Act, sulla riforma del mercato del lavoro, di votare no, a differenza di altri suoi colleghi di partito che hanno preferito uscire dall'aula. Ci spiega questa scelta? Beh, è una scelta per me molto seria e molto meditata da tempo, non ho trovato significativa la mediazione, anzi in alcuni casi è peggiorativa secondo me quella che è stata portata alla Camera rispetto al testo che era invece stato votato in Senato con la fiducia, e quindi sono rimasto coerente con una linea che risale al mio mandato elettorale, cioè i direttori che avevano votato per il PD un anno e mezzo fa certo non avevano votato per quello che stiamo facendo. Quindi non è d'accordo e lei dice coerentemente ho votato contro. Le voglio chiedere un paio di cose sullo stato del suo partito, perché lo strappo di ieri, a prescindere da chi ha votato contro e chi invece ha deciso di uscire dall'aula, è stato piuttosto forte. È alle viste la formazione di un nuovo partito? È alle viste una scissione? Lei ha intenzioni di questo genere? Beh, intanto volevo significare una cosa che mi pare rilevante. Che chi è uscito in realtà condivide il disagio che ho manifestato con il mio voto contrario, ed è viceversa, potremmo dire, cioè non c'è nessun elemento di divisione tra di noi se non un fatto tecnico appunto nel momento del voto finale. Le parole di Stefano Fassina, di Gianni Cuperlo, di Rosi Bindi, di tanti altri vanno nella stessa direzione, erano state espresse prima come preoccupazione, non sono state considerate come importanti, quindi si è arrivati a questo voto, a questo strappo. Che ci sia qualcosa di nuovo, no, però Rosi Bindi oggi l'ha spiegato bene sul Corriere della Sera, lo sostengo da tempo, bisogna capire che cosa vuole diventare il Partito Democratico, se vuole diventare il Partito della Nazione, un partito di centro che dialoga con la destra, è chiaro che per alcuni di noi non si tratta di una prospettiva di grande interesse, anzi è una prospettiva di chi, come me, sostiene l'alternanza, il bipolarismo, insomma va rifiutata, quindi è anche una domanda quella di ieri a Renzi, se ha voglia, interesse come scelta politica di guardare anche alla sua sinistra, diciamo, tutto quel mondo che in questo momento sta prendendo a pallonate, non solo la sinistra sindacale ma quella della cultura, quella insomma anche della nostra storia politica, che non è necessariamente nostalgica o vive nel ricordo, magari semplicemente ha opinioni diverse. Renzi non ne ha tenuto affatto conto, ha deciso di fare una campagna forsennata per tutto l'autunno, quest'estate quando Alfano diceva le stesse cose lo prendeva in giro, e poi alla fine ha assunto la posizione di Alfano e di Sacconi, e infatti sono contentissimi, insomma. E le sembra che dunque il voto di ieri sul Jobs Act e quella che lei considera una forzatura rappresenti, come dire, rappresenti un punto di non ritorno, o ci sono ancora dei margini per... Beh, guardi, di solito ero da solo a fare questo tipo di battaglia, a distinguermi il momento del voto, a segnalare i problemi che risalgono allo schema delle larghe intese. Per la prima volta invece il dissenso si è manifestato in modo abbastanza clamoroso, e quindi per certi versi un motivo in più per insistere non soltanto con le forze che sono alla sinistra del PD, ma anche dentro il PD con chi è disposto a fare una discussione e anche una battaglia politica. Questa è la vera novità. Se prima la mia era considerata una posizione residuale, adesso è un fatto di evidenza, e che fortunatamente non riguarda solo la mia persona, perché a cura di personalizzazioni questa politica si sta perdendo completamente. Grazie a Pippo Civati, deputato del Partito Democratico. Buona giornata e buon lavoro. Ancora sul tema dei vaccini, giusto per rispondere rapidamente a qualche sms che è arrivato al 349-238-6666, attenzione, qua non si sta dicendo che i vaccini non abbiano effetti collaterali, si sta, lo ribadiamo, mettendo, non in discussione, si sta negando, perché così è provato scientificamente, il collegamento tra l'autismo e i vaccini medesimi, è una cosa acclarata scientificamente, non c'è alcun collegamento, ci fermiamo, c'è... Una pausa alla borsa, poi ci ritroviamo e parliamo di Libia e parliamo anche di lavoro, perché ieri è stato dato il via libera all'acquisizione da parte di un gruppo algerino delle acciaierie Lucchini di Piombino. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Corte di Giustizia condanna l'Italia per i precari della scuola, 250.000 dice dovranno essere assunti. Il medico di emergency affetto da Ebola è stabile ma presenta ancora febbre. Il 90% degli euro falsi in circolazione nel continente arrivava da Napoli, sgominata un'organizzazione, oltre 50 arresti. Juncker presenta il piano per il rilancio dell'economia europea, mobiliterà, dice, 300 miliardi. Dopo il voto sulla riforma del lavoro si approfondisce il solco tra minoranza e maggioranza PD. Intanto in Forza Italia Fitto torna all'attacco. Primarie per tutti, dice a Radio 24. La borsa. Diventa un Cloud Italia provider. Guadagna con il cloud anche tu da subito. Clouditalia.com. Vi presenta Borse in diretta. Decisamente poco mossi i mercati, più 0,01% il FTSE MIB in questo momento, meno 0,03% il FTSE All Share, positiva Francoforte oggi, un più 0,6%, Parigi giù dello 0,06%, anche qua di poco, e Londra il rialzo dello 0,18%, Isabella Tasso, Radio Cori, il Sole 24 Ore, non mi sembra una giornata particolarmente brillante, no? No, infatti il piano Juncker per favorire gli investimenti nell'Unione Europea non sembra scaldare i listini, Piazza Affari, come dicevi, chiude la mattinata in lieve rialzo, così come l'aveva aperta, recuperando anzi il lieve ribasso che si era innescato a metà mattina per i dati inferiori alle attese sulla fiducia dei consumatori, per le parole del vicepresidente della Banca Centrale Europea, Vitor Costanzio, che ha rinviato all'inizio del 2015 ogni valutazione su eventuali acquisti di bond governativi, spostando così un po' più avanti le aspettative su nuove misure da parte della Banca Centrale che si erano create sui mercati. Questi restano comunque orientati a un moderato rialzo su entrambe le sponde dell'Atlantico e difficilmente gli investitori prenderanno posizioni forti oggi, visto che domani inizia negli Stati Uniti il ponte per il giorno del ringraziamento. Grazie Isabella anche per oggi, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E torniamo a parlare di Libia adesso, ad un passo da noi, e troppo spesso ce la dimentichiamo. Ieri vi abbiamo raccontato che si parlava di bandiere dell'ISIS che ormai sventolavano, dell'ambasciata di Malta a Tripoli che è stata svuotata definitivamente, rimangono solo la rappresentanza diplomatica italiana e quella ungherese, un paese veramente spaccato in due, con un governo riconosciuto internazionalmente a Tobruk e un governo non riconosciuto a Tripoli. Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI ed esperto di rapporti tra l'altro tra Italia e Libia. Varvelli, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buon pomeriggio. Allora, oggi il ministro degli esteri Gentiloni ha parlato della possibilità, naturalmente sotto l'egida dell'ONU, di una missione di peacekeeping. È quello che ci vorrebbe, secondo lei, Varvelli? È quello che ci vorrebbe, ma forse ci sono dei vincoli per i quali difficilmente si presenterà questa opportunità, e ci sono dei vincoli che lo stesso Gentiloni sottolinea molto ampiamente, diciamo, al di là del titolo da prima pagina che è quello di una missione di peacekeeping che è stato sottolineato dai giornali. Tutto sommato lui dice innanzitutto ci vuole l'egida delle Nazioni Unite e quindi della comunità internazionale in qualche maniera, e seconda possibilità si interverrà con una missione di peacekeeping solamente nel caso in cui dovesse esserci comunque preventivamente un accordo politico tra le parti. E diciamo che su questo lato c'è sicuramente molto da lavorarci, cioè la missione principale della comunità internazionale, dell'Europa e dell'Italia non è certamente in questo momento una missione di peacekeeping, ma è ritrovare e ripercorrere il filo di un accordo, di un possibile accordo tra le varie parti, e su questo c'è molto da lavorare. Lei dice insomma missione di peacekeeping no, nel frattempo ci sono, cioè è difficile da realizzare evidentemente, nel frattempo ci sono una serie di vicende da tutelare, l'ipotesi di un come dire, di una sorta di accordo internazionale, di rimettere le parti intorno ad un tavolo. Ma per il quadro nel quale si presenta la Libia, anche con la crescita degli jihadisti, come si diceva, si sono viste bandiere nere dell'ISIS a Tripoli nei giorni scorsi, le sembra ancora possibile? È molto difficile, bisogna essere onesti, è molto difficile, e se non si è trovato in questi mesi naturalmente una ragione, purtroppo c'è, ed è determinata da una polarizzazione che è diventata non solamente politica tra le varie parti, ma una polarizzazione militare. E questa situazione di polarizzazione politica e militare ha comportato un caos nel paese, con due governi che di fatto però nessuno dei due è capace di governare la Libia, e quindi ampi spazi di caos e di anarchia nei quali varie formazioni jihadiste, alcune delle quali si rifanno, diciamo, all'ISIS e hanno avuto una sorta di riconoscimento da parte anche di al-Baghdadi, che stanno diciamo sempre più penetrando in Libia, perché non è solamente una questione di foreign fighters, cioè di libici che hanno combattuto sui fronti iracheno-siriano in passato, un recentissimo passato, che stanno tornando a casa, ma è anche una questione di infiltrazioni straniere, perché queste le abbiamo sempre viste più numerose nell'ultimo periodo. E quindi diciamo che una sistemazione politica è molto difficile, ed è molto difficile anche per un quadro regionale nella quale vediamo contrapposte le principali potenze regionali. Da una parte l'Egitto, che sponsorizza sempre di più il governo di Tobruk, che l'ha messo sotto la propria protezione, e le forze militari di Haftar, e dall'altra parte invece Turchia, Qatar, eccetera, che ancora guardano con un relativo, diciamo, sostegno e appoggio alle forze della fratellanza musulmana presenti in questo momento a Tripoli e in Tripolitania. Grazie ad Arturo Varvelli, ricercatore dell'ISPI, esperto di rapporti tra Italia e Libia e di Libia. Noi, prima di andare alla viabilità, abbiamo tre minuti per parlare di quello che sembra un accordo ormai fatto, anche se manca la firma del Ministero, del Ministro, ossia il gruppo algerino Cevital è il favorito per l'acquisizione della Lucchini di Piombino. C'è arrivato un parere favorevole dal comitato di sorveglianza della Lucchini S.P.A. Io saluto Mirko Lami, che è coordinatore della CGIL Piombino e tra l'altro lavora in quella fabbrica. Lami, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, molto brevemente, siete soddisfatti di questa soluzione? L'ipotesi vi sembra buona? Perché tra l'altro Cevital mi sembra che nell'acciaio non ci sia mai stato, è un gruppo dell'agroalimentare. Ma certamente siamo soddisfatti. Cevital è stata anche in Algeria, aveva anche dei piccoli stabilimenti che purtroppo, a quanto dicono, sono stati bombardati da terroristi. Però è chiaro che noi siamo soddisfatti perché Cevital ha proposto un progetto serio, della quale sin dal primo maggio, quando noi siamo saliti sul palco insieme al governatore Rossi, abbiamo sempre detto che più o meno deve tornare a produrre acciaio. Con Cevital ci sono queste caratteristiche, perché ha intenzione di mettere due forni elettrici, ha intenzione di, quando siamo a regime, di avere tutto il personale attuale della Lucchini, e la cosa interessante è la piattaforma agroindustriale, per cui va a diversificare, e per Piombino si tratta, per la prima volta nella storia, di abbandonare la monocultura industriale per andare su altre realtà. Quindi passare dal solo acciaio all'agroalimentare, anche se non sbaglio alla logistica, alla distribuzione. E in 30 secondi, Lami, che tempi prevede per la chiusura di tutto questo? Insomma, voi siete addosso alla cosa, quindi le notizie ce le avete. Quando si dovrebbe partire? Ma senz'altro la burocrazia la farà da padrona, per cui la prossima settimana già noi abbiamo chiesto di incontrare la società, di incontrare anche il commissario per iniziare a mettere le basi e iniziare un percorso, perché dalla prossima settimana dovremo davvero discutere di come provare a ripartire, e per ripartire ci vorrà tempo, perché io credo che per riprodurre acciaio servono comunque circa 2 anni. Brevemente, il prossimo incontro quando ce l'avete? Settimana prossima avete già una convocazione? No, l'abbiamo chiesto, però ancora non ci hanno risposto, perché ci risponderanno dal momento che poi il ministro firmerà. Grazie a Mirko Lami, coordinatore della CGIL Piombino, che lavora appunto nella fabbrica della ex Lucchini. Molti sms stanno arrivando ancora sul tema dei vaccini. Guardate, non abbiamo nessun problema a parlarne. Scriveteci effetto giorno @radio24.it oppure la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. È necessario affrontare insieme la questione migratoria. Non si può tollerare che il mar Mediterraneo diventi un grande cimitero. Papa Francesco. Come mai, direte voi, dall'America vi faccio ascoltare Papa Francesco? Beh, perché parla di immigrazione, è andato al Parlamento europeo a Strasburgo e ha affrontato un tema caldissimo anche qua. In America, ricorderete che Barack Obama ha firmato un ordine esecutivo per cercare di affrontare la sfida dell'immigrazione, per dare legalità a 5 milioni di immigrati, per sfidare i repubblicani che resistono a qualunque cambiamento. Un tema, vi dissi, che riguarda anche noi e in effetti se ne parla in Europa, ma riguarda soprattutto l'Italia. Proprio di questo ha parlato di nuovo un'altra combinazione Beppe Severgnini ieri sul New York Times con un articolo intitolato Rome is Burning, Roma brucia, i problemi delle periferie di Roma. Dunque, dovendo fare un confronto tra sfide dell'immigrazione in America e in Italia, il personaggio ideale con cui parlare è qualcuno che conosce entrambi i paesi. E dunque Beppe Severgnini è qui con noi ai microfoni di America 24, giornalista, scrittore, autore teatrale che ha vissuto anche in America. Buongiorno Beppe. Eccomi qui, buongiorno Mario. Allora, insomma, tu hai dato un quadro, come dire, molto realistico, allarmante per gli americani che forse non se lo aspettavano, di quello che succede nelle nostre periferie. Gli americani hanno dell'Italia un'idea un po' così letteraria, romantica, in qualche caso favolistica, perché molti vengono come turisti, vedono i centri delle città, vedono il Colosseo, Firenze, Venezia. Non è che il turista americano va a Tor Sapienza, va al Gratosoglio, va a Corvetto, va nelle periferie di Torino, e quindi era anche giusto scriverlo per spiegare che i problemi delle periferie non sono un'esclusiva di nessun paese, cioè le società occidentali caricano nelle periferie i propri problemi. Resta un fatto che in Italia il numero di immigrati è il 7%, negli altri, in Germania e in Gran Bretagna siamo al 13%, in Spagna al 12%, in Francia al 10%, quindi un po' stiamo drammatizzando, e soprattutto ci sono partiti che su questa inquietudine stanno speculando. Ecco Beppe, c'è una differenza, tu conosci l'America a fondo, sei stato corrispondente a Washington, hai anche scritto un libro sull'America, tu sai che c'è una differenza, almeno secondo me, poi voglio sentire il tuo parere, fondamentale tra l'immigrazione americana e quella europea in genere, non diciamo soltanto italiana, e cioè è un fattore culturale. L'immigrato che arriva qui quasi subito si sente a casa, quasi subito trova del lavoro e i suoi figli diventano americani. Sei d'accordo su questo, su questa differenza culturale? Quando qualcuno arriva in America e viene accettato, quindi viene, ha un permesso di soggiorno, poi la carta verde, poi la cittadinanza, in qualche modo parte del pacchetto è tu acquisti il sogno americano, che non è una banalità, vuol dire che nel momento in cui un ragazzino immigrato prende il berrettino da baseball, se lo gira al contrario e si ferma a mangiare in un McDonald's e dice io sono contento, un giorno avrò una macchina più bella qua parcheggiata qua fuori, in quel momento è americano. In Italia questo non avviene, in sostanza noi non chiediamo doveri, e questo è un grave errore, perché poi diritti e doveri vanno insieme, e io invece farei agli immigrati un discorso molto chiaro: volete venire? Ok, questi sono i diritti, questi sono i doveri. Tutto questo in Italia non si fa. Sempre il New York Times l'altro giorno faceva un racconto molto interessante, un racconto spagnolo, di come la Spagna ha introdotto nella legislazione per l'immigrazione dei favoritismi per coloro che arrivano nel paese con delle lauree, con la possibilità di dare un contributo soprattutto nell'high tech. Secondo te varrebbe la pena di copiare la Spagna da questo punto di vista, magari di creare qualche cosa per attirare anche dei cervelli, oltre che coloro che arrivano coi barconi? Non c'è dubbio, anche perché l'Italia è molto attraente per chiunque voglia venire a vivere qua, però il fatto che non riusciamo a attirare neanche i dirigenti delle multinazionali in un paese dove si vive bene. Ricorda che esiste una cosa che si chiama geografia, cioè noi siamo piazzati sopra la Libia, vicino all'Egitto, a portata della Siria, cioè noi abbiamo problemi che la Spagna, che è più a ovest, non ha, e che molti paesi europei non hanno. Cioè l'Italia pende come un frutto maturo sopra il Medio Oriente e l'Africa, ed è un paese occidentale, benestante, quindi è una tentazione irresistibile. Ci sono problemi geografici innegabili, molti di nuovi arrivati hanno il diritto all'asilo, sono dei rifugiati veri, non fanno finta, perché vengono dalla Siria, sappiamo cosa succede in Siria, sappiamo cosa sta succedendo in Iraq, sappiamo cosa sta succedendo in Libia, che è un paese completamente allo sbando, quindi ci sono dei problemi oggettivi, c'è un'ipocrisia intorno all'immigrazione che peraltro ti rubo ancora un attimo, riguarda anche l'America. Ecco, tu parli anche di questo problema dei sobborghi, tu sai che in America ci sono le inner cities derivano dal progetto, dai projects come erano chiamati, case popolari costruite per accogliere così molto spesso afroamericani, molto spesso le frange più povere della popolazione. E tu parli di Renzo Piano, che forse ha un'idea, ma come si traduce questa idea di Renzo Piano secondo te? Lui dice: non possiamo cambiare tutto, almeno rammendiamo le città. Cioè, se tu le scuole fanno schifo, i parchi giochi sono pieni di siringhe e di vetri rotti, l'illuminazione non c'è, tu capisci che queste periferie vanno allo sbando. Tu cominci a mettere l'illuminazione, a chiudere le buche, a riscaldare le scuole, non è che occorrono i miliardi di euro. Ecco, l'Italia ha un serio problema di manutenzione. Parlando di emigrati, parlando di emigrazione e di viaggi, la vita è un viaggio a teatro. Ma raccontami di questa cosa, perché magari sai una piccola parte e vengo anche a suonare la chitarra, dimmi tu. Wow, bravo a scoprirlo. Allora, ho scritto un testo teatrale per la prima volta, ma non io, la prima volta in assoluto c'è un giornalista italiano, come siamo io e te, in attività, che recita un personaggio. Abbiamo esordito a Genova, e saremo per esempio a Torino, ci tengo molto, il 2 di dicembre, finiremo a marzo a Milano al Franco Parenti, ed è la storia di un signore della mia età che rimane bloccato in aeroporto a Lisbona con una ragazza di 28 anni che si vuole dimettere da italiana e da europea perché è arrabbiata per il lavoro che non c'è, per come la trattano, e in qualche modo lui cerca di aiutare lei. Alla fine è lei che aiuta lui, lui sta andando in America, a Boston, lei sta andando in America del Sud. Ti assicuro che è stato liberatorio farlo, ma se chi verrà a teatro vede questo Beppe Severgnini sul palco e pensa che è impazzito, e non riconosce lo stesso che sta parlando con te a Radio 24, che scrive sul Corriere della Sera, che scrive sul New York Times o che scrive i libri, allora ho sbagliato tutto. Ma io sono convinto che su quel palco io dico le stesse cose in modo diverso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Goodbye and get going! America 24. Un'ultima notizia prima di chiudere: ci sono le dichiarazioni del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che dice che l'Italia ha assolutamente la coscienza a posto sulla legge di stabilità e conferma che il governo non ha ancora ricevuto la lettera con i dettagli dell'opinione della Commissione europea. È tutto per Effetto Giorno dunque, grazie a Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza e redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Ci si risente tra un attimo con GR24 e poi domani alle 13 con Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti.